méthodette de préparer la peperonata. Io ti chiesi di prepararmi la peperonata. Cosa sei? Trip e cioccolato. Con la salsiccia, la trippa e la cioccolata. Che mi piace tanto e che ne vaga mai. Che io adoro e farei pazzie. Anche se se ne grassi in quartier, me ne mangio due piatti. E anche se sono sovrappeso, ne gradirei altri due piatti. Ma tu no, te preparai e semolin. Ma tu preferisti il semolino? Ma tu no, con due gambe di sedano nei. Per giunta con due miseri gambi di sedano. Dici che son grassi che devo recuperare. Dici che sono obeso e che dovrei stare un po' a dieta. E che questa roba me mi fa vomitare. È che questo cibo non lo gradisco affatto. Oltretutto sai che te mi fai le cose. Per dindirindina so anche che mi tradisci. Che il fornaio, il barbiere, il meccanico e l'ingegnere. Praticamente con mezza città. Ma me no, da scivo con la peperonette. Ma io sapevo e tacevo, ma avevo la peperonata. Ma con il semolin, questo è un altro piede. Ma con il semolino parlo e dico tutto. Tu da sa chi sei. Tu sai chi sei. Amore, tu da sa chi sei. Amore, tu sai chi sei. Te devo dire chi sei. Ti devo dire chi sei. Putain. Sei una donna facile. Una gran putain. Una gran donna facile. Una putanasse. Una donna che non fa neanche la peperonette. Che non prepara la peperonata. Cina putain. Sei una donna moderna. Una gran putain. Una gran donna moderna. Una putain ass, una super donna che prepara il semolin. Che prepara il semolino. Adesso chiedi scusa e mettiti in ginocchio. Fatti perdonare mettendoti in ginocchio. Qui davanti a me proprio il semolin. Qui al mio cospetto tra i vari ortaggi. Che mi sbasso le pantaloni e tu sai cosa fa? Che mi abbasso i pantaloni e fai quello che fai un po' a tutti. Mi guardi e dici no, preferisco cucinare. Mi guardi e dici no, preferisco fare altre tu cose. Tu sai chi sei. Tu sai chi sei. Amore, tu sai chi sei. Amore, tu sai chi sei. Te devo dire chi sei. Ti devo dire chi sei. Cina putain. Sei una donna di strada. Una gran putain. Una gran donna di strada. Una putanasse. Una donna moderna. Che non fa neanche la peperonè. Che non prepara la peperonata. Cina putain. Sei una donna, una mignotta. Una gran putain. Una gran donna di quella come quella di prima. Una putanasse, ass. Ma assa proprio. Che prepara e semolin. Che prepara il semolino. Ti amo peperonata. I love peperonata. Ti amo peperonata. I love peperonata. peperonà. Ti amo, peperonata. Hey là. Ti amo. Peperonà. Peperonata. Ma che tu sei? Ma dove sei? Dove sei? Scusa. Peperonà. Peperonata. Peperonà. Peperonata col pianto. Peperonata. Peperonata con la disperazione.